Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Forse ormai si dovrebbe parlare di economia peer-to-peer, è la grande trasformazione che sta cambiando il volto di moltissimi settori dell'economia tradizionale, con vincitori come coloro che oggi affittano una camera su Airbnb o si improvvisano autisti tramite Uber, e naturalmente anche vinti come albergatori e taxisti o come i primi ristoratori che oggi si sentono il fiato sul collo delle varie piattaforme di social eating o di home restaurant. Su quest'ultimo fenomeno si sta ora anche esercitando il Parlamento con una legge che è già stata approvata alla Camera e ora dovrà proseguire l'iter in Senato nel tentativo di regolamentarlo. Inutile girarci attorno, è un esercizio difficile perché da un lato si capisce in generale per questi temi che gli operatori professionali lamentino, diciamo così, una forma di concorrenza sleale, se consideriamo che queste realtà domestiche non sono soggette alle stesse regole e richiedono investimenti anche inferiori. Dall'altro, l'economia collaborativa rappresenta oggi uno dei pochi antidoti che abbiamo a disposizione contro la crisi economica e anche contro una tendenza ormai riconosciuta universalmente delle ricchezze a, insomma, concentrarsi sempre di più nelle mani di pochi, in genere già ricchi in partenza. Ma torniamo all'Home Restaurant, una delle piattaforme più affermate in Italia oggi, Egnammo, di cui abbiamo in linea il cofondatore e amministratore delegato Cristiano Rigon. Buonasera Rigon. Buonasera a voi, buonasera Melis. Allora Rigon, i punti fondamentali di questa legge sono 4 o 5. Intanto l'obbligo di assicurazione per il ristoratore, anche l'obbligo di pagamento da parte dell'ospite, in questo caso tramite internet. Cosa ne pensate? Non abbiamo mai ostacolato questa cosa. L'assicurazione è comunque una cosa che va a tutela del consumatore. Qui, per quanto in abitazione privata, abbiamo degli ospiti e quindi tutelarli è corretto. Sì. Dal punto di vista del pagamento online, la sharing economy si appoggia sulla tecnologia, nasce e vive di tecnologia. Se andiamo a togliere questo, togliamo trasparenza e finiamo davvero a perderci e basta. E d'altronde ci sarebbe probabilmente un problema non banale di evasione fiscale. Non ci sono invece vincoli o obblighi in termini di formazione sulla sicurezza alimentare per il ristoratore. Che cosa ne pensate? Non sarebbe stato male dal punto di vista del consumatore? Non sarebbe stato male. Un emendamento ha fatto cadere l'obbligo di attestato a CCP. Diciamo che è quello che seguono normalmente i ristoratori professionali, no? Assolutamente sì. Diciamo che su questo punto, come Gnamo, non avevo mai ostato. Ritengo che la formazione in questo settore sia fondamentale e quindi qualcosa si debba fare. Attendiamo le indicazioni del Ministero della Sanità sui requisiti e le buone norme di igiene del cuoco. Certo è che forse è giusto non insegnare alla signora Maria a usare la cella frigo. L'abbattitore, ecco, esatto, che non avrà mai in casa magari. Come tenere in ordine la dispensa, pulire la lavastoviglie, è ottimo farlo. Ecco, veniamo invece a due vincoli che sono pensati chiaramente per contenere, diciamo, l'entità di questo fenomeno. Intanto c'è un limite massimo di 5.000 euro annui per i proventi di un home restaurant. Quindi dovrebbe essere 5.000 euro tolte le spese, naturalmente sostenute, l'acquisto della materia prima. Sì, questo limite è sicuramente un limite forte. Certo che se lo chiamiamo proventi e quindi guadagno, che è differenza positiva tra il ricavo e le spese sostenute, quindi mi tengo lo scontrino del macellaio, la stessa fee della piattaforma Gnammo, piuttosto che quanto speso di vino, è un limite che possiamo dire sensato, allineato, accettabile. È il limite del lavoro autonomo occasionale. Infatti, in cui rientra questa attività. Sono però più propenso a porre un limite di numerosità, quindi il limite che vogliamo porre di 500 coperti all'anno, secondo me, è più corretto rispetto a quello in euro, perché un pasto con una qualità molto alta magari supera i 5.000 euro anche senza arrivare a 500 coperti e viceversa. Quindi forse è più allineato anche alla misura che hanno i ristoranti porre limiti sulle numerosità e non sul fatturato. Ecco, un altro divieto invece è quello di svolgere attività di home restaurant nella stessa abitazione che sono destinate ad affitti a breve termine, cioè sostanzialmente sarebbe vietato mettere insieme, per capirsi, Gnammo e Airbnb. Di questo cosa ne pensate? Questa è assolutamente la cosa più storta che è stata scritta. Secondo me l'intento era ottimo, perché era quello di ribadire che un bed and breakfast, così come già è oggi, non ha nella sua scia la possibilità di servire pasti, anche perché sennò rientrerebbe in quella che è l'hotellerie e quindi sarebbe un albergo. Volendo scrivere questo, che spero fosse l'intento del legislatore, abbiamo fatto un po' un pasticcio e abbiamo scritto quello che hai detto tu, ovvero che la cuoca dove ho mangiato io ieri sera a Milano, e sono stato benissimo conoscendo 7-8 nuovi amici, ha anche una camera che ogni tanto mette su Airbnb, vorrebbe dire che non può ricavare qualche cosina perché che la aiuta a pagare le spese di casa, né da Airbnb né da Gnam. Beh, però ci sarà anche chi magari pensa di fare questa cosa poi quotidianamente, chi affitta su Airbnb tutti i giorni e magari dice faccio anche 500 coperti, no? Questo è possibile e in questo bisognerebbe ragionare sulla legge quadro, sulla sharing economy, per andare a mettere dei paletti, andando a smascherare così quelle attività che potrebbero essere dei veri alberghi poco legali, mettiamola così.